Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Giovedì 26 settembre 2013 e questa è la 114esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La voce che state ascoltando è quella di Camilla Lattanzi in rappresentanza del resto della redazione. Ci ha scritto un ascoltatore, Roberto, maestro elementare di Lucca. Roberto ci ha segnalato il fatto che nei nuovi programmi del primo ciclo di istruzione, i programmi che ora sono chiamati indicazioni nazionali, e per la precisione la parte che riguarda gli obiettivi delle scienze alla fine della terza elementare, evidenziano un particolare abbastanza inquietante. Tra gli obiettivi di apprendimento, infatti, ci sarebbe quello di osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando allevamenti in classe di piccoli animali, semine in terrari e orti, eccetera, individuando somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali. Per commentare questa notizia abbiamo raggiunto Anna Maria Manzoni, psicologa, psicoterapeuta e autrice di molti libri animalisti. Bisogna certamente fermarsi e riflettere, nel senso che tanto c'è da dire e tanto si è ormai detto sulla necessità che le gabbie siano vuote, vale a dire che se anche è abitudine consolidata a tenere degli uccellini in gabbia, questo non è certo un bene per gli uccellini e non ha assolutamente nulla di educativo per dei bambini. L'avere messo vicini questi elementi, quindi da una parte le piante, dall'altra gli animali, i momenti significativi nella vita di piante e animali, sono cose diverse, gli animali e le piante. Le piante possono stare in un'aula se l'ambiente è favorevole. L'educazione alla vicinanza e al rispetto per gli animali deve passare dal fatto che i bambini devono essere abituati a rispettare gli animali per quelli che sono, non a renderli dipendenti da sé o dalle proprie esigenze e magari curiosità. Io credo questa cosa, che chi ha scritto queste cose abbia pensato molto poco. Sicuramente non ha riflettuto sui grossissimi dibattiti che ci sono in corso rispetto al nostro rapporto con gli altri animali. Quello che possiamo aggiungere come commento alle righe che abbiamo letto è forse questo: è importantissimo che i bambini vengano educati a un diverso rapporto con gli altri animali, però perché si possa parlare davvero di rispetto, bisogna che i bambini siano accompagnati davvero a rispettare gli altri animali, che significa vederli nel loro ambiente naturale, non sottometterli a se stessi, osservarli nel loro mondo libero. Questa è una cosa che noi con gli altri animali facciamo molto molto raramente ed è la cosa che invece manca. Siamo abituati purtroppo ad avere un rapporto di predominio sugli animali di cui tante volte non siamo nemmeno consapevoli. Il tenere l'uccellino in gabbia piuttosto che il topolino, la cavia o animali di questo genere è una cosa che viene fatta in molte famiglie, ma è una cosa profondamente sbagliata e certamente non possiamo spacciarla per una forma di educazione dei bambini alla conoscenza degli animali. In questo modo i bambini vengono invece accompagnati a ritenere come l'unico possibile un rapporto di predominio sugli animali. Allora forse le persone che si sono occupate di redigere questo scritto avrebbero dovuto fare dei pensieri e elaborare delle idee che portassero al raggiungimento di un rapporto di rispetto con gli animali attraverso l'osservazione degli animali stessi nel loro mondo libero. Questo sarebbe veramente educativo. Quello che ancora oggi mi risulta che venga fatto è quello di organizzare, per esempio, delle gite a delle fattorie, a dei posti dove gli animali vengono allevati. Quello che però non viene detto ai bambini in questo caso è perché vengono allevati, e lo si dà, è come se fosse la musica di fondo di cui però nessuno parla. Anche questo è profondamente diseducativo, perché c'è un grande imbroglio alla base, cioè porto i bambini, loro di solito si interessano, si incuriosiscono, si entusiasmano, e in realtà viene cancellata in nome del fatto che i bambini non vanno spaventati, non devono approcciare delle realtà che siano brutali o altro, però è fortemente diseducativo. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ricapitolerò molto brevemente quello che è accaduto alla rubrica Il Pasto Gentile da quando è passata di mano, e la sua conduzione è adesso piena responsabilità di Gabriele Palloni, il nostro amico chef cruelty free. Dopo averci dato nelle scorse puntate suggerimenti su cosa tenere in frigo in dispensa, dopo averci detto di quali elettrodomestici non potremo fare senza, e dopo averci dato la ricetta del latte di soia, questa volta ci somministrerà una fresca ricetta ancora utile per questo caldo scorcio di fine estate. Il gelato alla banana. Wow! Vegano. Ci mancherebbe. Senza zucchero, senza latte, senza uovo, no. È fantastico. Agguantate carta e penna. Sembra quasi impossibile riuscire a fare un gelato senza gelatiere, prima di tutto. Senza cucinare, niente. Molto semplice, basta prendere le banane magari mature, anche quelle molto mature che solitamente uno non le mangia più perché sono un po' troppo mature. Si fanno a fettine e si mettono in freezer, in congelatore, così. Quando sono belle congelate, le frulliamo col frullatore a immersione e una goccia di latte, ma proprio poco. Inizialmente fanno un po' di resistenza, ma quando si tritano fanno proprio una crema e è gelato. Dai. E lo metti nelle tazzine, nelle bicchierine, nelle coppette e ti mangi un gelato alla banana senza niente, senza zuccheri aggiunti, senza grassi, senza niente. Non niente. C'è bisogno di niente, viene una crema gelata buonissima. Magari uno ci può mettere sopra un po' di cioccolato, se vuole. Ecco, diccela tutta. Io, della cannella. Però se uno proprio vuole esagerare, ecco, peccato di gola. Ma non ce ne sarebbe bisogno, perché bisogno, è già buono. È buonissimo e sa di banana, perché non c'è altro che banana, per cui... Fantastico. Breve, facile e immagino molto buono. Proveremo. Può essere anche una buona merenda per i bambini, no? Quando il pomeriggio non sa, esatto, cosa fargli, invece di riempirli sempre. Per la mamma che vive la performance e non ha tempo di fare le torte, le crostate. Un minuto per fare questo. Veramente con un minuto di orologio. Ecco. Basta pensarci prima. Grazie Gabriele. Ciao ciao. Ciao. The Book of Love. Rush finale per la raccolta firme della campagna Stop Vivisection. Questa settimana, sabato 28 settembre, ci sarà una raccolta firme in tutta Italia e quindi potrete trovare banchetti per firmare, se ancora non lo avete fatto, in tante città della Toscana. Chiediamo a Silvia Bensi, attivista, campionessa nazionale, non lo so, ma sicuramente regionale di raccolta firme, di farci una breve carrellata degli appuntamenti toscani di sabato. A Firenze esattamente faremo un banchetto raccolta firme dalle 9:30 fino alle 17:30, tutto il giorno, quindi in via Calimala, angolo via degli Speziali. Noi raccoglieremo solo le firme e faremo informazione per questa campagna. Poi a Montecatini Terme, al locale Gambrinus Music Café, Viale Verdi 26, inizio del programma alle 15:30 con raccolta firme Stop Vivisection, tavoli informativi, mostra fotografica e addirittura una pericena con buffet vegano. Poi Arezzo, una manifestazione addirittura contro la vivisezione, banchetti informativi, letture di brani sulla vivisezione, raccolta firme, in Piazza San Jacopo dalle 15 alle 19, poi Marina di Carrara dalle 14 alle 19 all'entrata della passeggiata del porto, e lì ci sarà questo banchetto di raccolta firme e distribuzione volantini. A Prato il Comitato Animalista Pratese organizza un banchetto di raccolta firme dalle 14 alle 20 in Piazza San Francesco. A Livorno dalle 9 alle 20 un banchetto dentro la Coop supermercato, che si chiama Supermercato La Rosa di via Settembrini 35. Esiste un sito internet o un luogo su Facebook? Eccolo qua, si chiama 28 settembre 2013, tutta l'Italia, tutta Europa in piazza insieme contro la vivisezione. 28 okay. settembre 2013, tutta Italia, virgola, tutta Europa in piazza insieme contro la vivisezione, con tre punti esclamativi. Non è semplicissimo sì. da ricordare. Metteremo anche un link nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Grazie, a presto Silvia, buon Grazie, lavoro. Ciao. Grazie, ciao anche a voi, ciao. Aggiungo che anche a Borgo San Lorenzo ci sarà un banchetto sabato 28 settembre in Piazza Garibaldi per tutta la giornata, dove potrete firmare per la campagna europea Stop Vivisection. In aggiunta, venerdì 27 settembre a Montecatini Terme in provincia di Pistoia, dalle ore 17 presso il locale La Cascina in Viale Verdi 43, ci sarà una conferenza con il dottor Massimo Tettamanti. Dal 30 settembre al 6 ottobre, in occasione della settimana vegetariana internazionale, sono previste numerose manifestazioni in tutta Italia. Ce n'è una molto particolare della quale vogliamo parlare, che è la prima notte veg, prevista per venerdì 4 ottobre, giorno di San Francesco. È stata definita una festa simultanea e la organizza la casa editrice Sonda di Casale Monferrato, che ha in catalogo ormai decine di volumi sull'alimentazione vegana e sulle questioni animaliste e antispeciste. Siamo al telefono con Antonio Monaco, che è il fondatore di Sonda. Antonio Monaco, che cos'è la prima notte veg? In Italia esistono tantissime iniziative di ispirazione animalista, antispecista o vegana. Ci sembrava importante provare a vedere di fare in simultanea un appuntamento che coinvolga un po' tutte le città e le regioni italiane, per trovarsi una sera appunto a fare una riflessione di consapevolezza sulle proprie scelte alimentari. Abbiamo immaginato appunto di dare questo nome per poter consentire a un numero molto elevato di persone, abbiamo immaginato tutti i nostri possibili lettori, abbiamo immaginato i locali vegani innanzitutto, quelli con cui abbiamo già un rapporto, e anche altri locali che e per quella sera offriranno solo un menù vegano esclusivamente. Le persone si possono ritrovare sapendo che tanti altri nel resto del paese si trovano in quell'occasione, appunto per soffermarsi sulle proprie scelte, per fare un passo in avanti, diciamo, non accontentarsi a dove siamo arrivati, ma riuscire ad andare oltre. La possibilità di essere informati è sul sito della casa editrice, che è www.sonda.it, dove sono indicati tutti i locali appunto che ospitano degli appuntamenti e dove le persone quindi possono scegliere quello più vicino a loro o farsi promotori attivi di altre occasioni, di altre serate. La scelta della data ovviamente si inserisce nella cornice della settimana vegetariana, quindi quando c'è già un'attenzione generale, però la scelta di quel giorno, poiché cade di venerdì e cade nella ricorrenza di appunto di San Francesco, voleva, nella tradizione dell'Italia, che è un paese cattolico e naturalmente non per questo si distingue positivamente per le scelte animaliste, però per tradizione e per ragioni ascetiche, non certamente antispeciste, ha sempre dedicato al venerdì un'attenzione particolare alla cucina di magro, quasi come dire una spia che c'era una percezione che qualcosa non andava nel resto della settimana e che bisognava in qualche modo mettere in discussione. Ecco, noi vorremmo che quella messa in discussione poi si trasformi effettivamente in un comportamento diverso. Il catalogo della casa editrice Sonda è molto particolare, direi unico in Italia per la quantità di titoli che affrontano la questione animalista. Cito fra le pubblicazioni più recenti il libro di Melanie Joy, Perché amiamo i cani, mangiamo i maiali e indossiamo le mucche, o quello di Leonardo Caffo, Il maiale non fa la rivoluzione, del quale abbiamo parlato anche recentemente. Qual è stata la spinta che ha portato Sonda in questa direzione in maniera così forte? La spinta è una spinta personale, una spinta, diciamo, di scelta di vita, e accompagnare a questa scelta di vita anche la propria scelta professionale. Quindi, come tutte le persone che si trovano a fare un'attività particolare, evidentemente un veterinario vegano, animalista, farà il suo lavoro, diciamo, con un'attenzione, con una sensibilità particolare, e oltre ai suoi doveri professionali avrà un modo di gestirla in particolare. E quindi nel mio caso, come editore, non posso che avere un'attenzione verso la cultura animalista e alla sua promozione e alla sua costruzione, e in questo senso abbiamo sviluppato un programma che guarda questo tema a 360 gradi, lo guarda, diciamo, in chiave globale, toccando sia le idee e quindi le discipline scientifiche, la filosofia, la psicologia, la medicina, ma anche gli aspetti pratici, le questioni della salute, la questione dell'alimentazione e anche la questione educativa, sia nei confronti dei ragazzi sia nei confronti degli educatori e degli insegnanti. Ecco, il nostro tentativo è di fare una proposta che tocchi tutti gli aspetti, quindi tocchi tutte le sfumature della vita di una persona che fa una scelta di rapporto diverso tra animali umani e animali non umani. L'ultima domanda, difficile per un editore: qual è il libro fra quelli pubblicati a cui tiene di più? Effettivamente è un po' difficile, però certamente c'è un legame affettivo con uno dei nostri autori, che è Tom Regan, che è stato anche in qualche modo all'origine delle scelte fatte ormai molti anni fa, e nel suo libro Gabbie Vuote, che in un certo senso per noi è anche un manifesto della nostra attività, e l'autore Tom Regan ha con noi un rapporto costruttivo, propositivo, molto importante. Quindi in questo senso Gabbie Vuote è uno dei libri più importanti che abbiamo fatto. Ed è anche un punto di riferimento per l'animalismo, l'antispecismo su scala internazionale. Grazie ad Antonio Monaco, grazie alle edizioni Sonda. È in corso in questi giorni nel Parco dell'Anconella Cirque Fantastique, un festival di circo contemporaneo senza animali 100% cruelty free, organizzato dalla Scuola di Piccolo Circo di Firenze Empist con la compagnia Magda Clan, che ha montato il suo tendone. Cabaret, clown, equilibristi, acrobati, imprevisti, burattini, laboratori, giocoleria, bici acrobazia e circo teatral musicale. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le età. Questo è il circo che ci piace e invitiamo a consultare il programma su cirquefantastique.blogspot.it. Naturalmente Cirque Fantastique è scritto con una C iniziale e due K. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti: restiamoanimali@controradio.it.